www.radio3pod.rai.it. Prima l'uovo, la gallina, le penne o i calamai. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli piani di realtà si confondono come in un caleidoscopio, Kappa e Drago sono come due Ulissi, o due Ulisse, nella loro personale odissea. Oh, Itaca, Itaca. Anche tu di Itaca, straniero? Sì, straniero. Come ti chiami, straniero? Ulisse, straniero. Anche io, straniero. Impossibile, straniero. Stavo pensando la stessa cosa, straniero. Cosa ci fai sul ponte della mia nave e per giunta col mio nome, straniero? Ulisse non è un nome straniero, straniero. Ah, e cos'è questa? Una sirena, ignorante. Quindi adesso dovremmo essere sedotti da lei. Ma da chi? Dalla sirena. Chi l'ha detto? Omero. Omero? Omero chi? Omero, l'anagramma di Romeo. Omero, Omero, perché sei tu Omero? Rinnega tuo padre e rifiuta il tuo nome. Omero, Omero. Caro Apelle, come ti sei permesso di fare una palla con la nostra pelle, sulla nostra pelle? Adesso, e cari pesci, perché venite a galla per vedere questa bella palla fatta da pelle, figlio di Apollo? Io lo so che un pollo mai siederà tra gli dei dei. Le nozioni di primo di classe. Malcolm Douglas, nato a Criciúma, Brasile, il 26 di luglio 1981, alto 184 cm e pesante 77 kg. Difensore di squadra di Internazionale Milano, si chiama così perché madre molto fanatica di Malcolm Douglas, ma anche molto analfabeta. Capito, Tarek? Per avere il Douglas, o sei un attore, o sei un calciatore, oppure un cantante. Tu sei un pulcino, per di più minus abes, non è che puoi pretendere molto, eh? Minus abes! Minus abes, bravo! Vedo che stai imparando a dire il tuo nome adesso, Minus abes! E beh, adesso basta però, eh! Aia! Anche cantante non il Douglas, eh? A parte Robbie Williams, dico, eh! Io parlo di cantanti degli anni 70, eh! Quelli lì avevano un Douglas bello genuino, eh! Mica come adesso che sei il Douglas, ti chiudi nella tua cameretta davanti a internet e vai su tutti i siti porno. Negli anni 70 c'era gente come Jimmy Page, Kid Moon, Mick Jagger, Frank Zappa, eppure Mariah Faithfull, quelli lì ci davano dentro davvero, Mariah Faithfull con tutti quelli che ho detto prima, Ma no! Te l'ho già spiegato, tu non te lo puoi permettere, Tarek! Tu non arriverai mai episcopale. Al massimo puoi esercitarti da solo. Ma non è mica la stessa cosa, No. Vabbè, capa, ma da soli non è la stessa cosa. Lo so, Drago, però se non abbiamo la materia prima, bisogna accontentarsi. Sì, quindi... ma quale materia prima? I soldi, Drago, i soldi. I paolini hanno un impero economico e noi niente, per cui la campagna di sensibilizzazione a favore di Amoghele, tredicesimo apostolo, non porta risultati concreti, è solo una questione di soldi. Ma è sempre così, cappa. Quando anche noi avremo un impero economico basato sui petti di pollo, allora forse potremo fare quel che vogliamo e mettersi... È in atto un complotto. Amoghele è come Barack Obama. Cosa c'entra adesso Barack Obama? Barack Obama e Amoghele sono tutti e due neri, intanto. E tutti e due aspirano ad un ruolo tradizionalmente rivestito dai bianchi, Non ti comincia a suonare? E quindi tu dici che le lobby, sia quelle WASP, sia quelle ebraiche, si stanno muovendo contro Obama e contro Amoghele? Ma è chiaro, è chiaro. È la nostra solita sfiga di metterci dalla parte dei più deboli. Se punti tutto sul nero, sei destinato al fallimento, te lo dico io. A meno che non sia un incontro di box o i 100 metri piani. Hi man, I am Jesse Owens, man, and you are listening to La Fabbrica di Polli, man. Black power, man. Black sausage. Sausage! Ma dai, ma nero o non nero, Amoghele sarebbe comunque stato sconfitto, dai, nessuno lo conosce tranne noi, il suo culto è limitato qui alla fabbrica di Poli, dove tutti i galli neri del Sabba si sono convertiti al cristianesimo, grazie a lui. Botswana però... Ma bisogna sapere lo Botswana se vuoi andare su internet e trovare qualcosa su di lui, dai. San Paolo invece ha un ufficio stampa della Madonna. A me basterebbe avere quello di Madonna. E invece l'ufficio stampa di Amoghele non esiste, pensa un po', anche se fosse nato a Norrköping, in Svezia, nessuno lo considererebbe. Città di Norrköping sorge tra città di Linköping e città di Nyköping in Svezia. Se invece proseguite verso sud, arrivate a città di Söderköping, molto più piccola ma con padrona di Emporio, direi avvenente, E anche figlia di padrona di Emporio, leggera figlia avvenente. Vedi, non è questione di colore della pelle, cappa. Amoghele è come Pete Best, il quinto Beatles, un culto per pochi intimi. Appunto, Drago. Le grandi imprese, per essere tali, devono partire dalle piccole cose. E noi riusciremo nell'impresa di creare un'eresia così potente da determinare uno scisma tra gli amogheliani, e cioè noi due, e il resto della cristianità. Cosa succederà adesso? La fondazione di una chiesa scismatica all'interno della cristianità porterà danni materiali a Cappa e Drago? Aia! Non è difficile prevedere la risposta, ma per esserne sicuri, sintonizzatevi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo dannatamente eretico allestimento de... La fabbrica di polli produce... Non La fabbrica di polli, un